silenzio t'ho invocato, oh Maria, nel mio cuore ti ho trovato. Stella bellissima, madre tenerissima di poveri figli in cerca d'amore, con un giglio tra i fiori, così pura tu sei. Tu sei il sole al mattino che risplende per noi. Sono dolci carezze quelle che tu hai per me, ma non son degno di te, oh dolce madre mia. Voglio cantare per te la mia voce tra gli angeli che lodano il tuo nome e benedicono il tuo sì, madre. Voglio donarti la vita mia perché sono tuo figlio nel cuore e nell'anima. Sei la più bella, madre del cielo, sei tu la regina, soffusa di grazia, è la tua bocca che prega il Padre per tutti noi. Uno spicchio di cielo, il tuo sorriso Maria, che ci dona la pace e la gioia nel cuore. Sono dolci carezze quelle che tu hai per me, ma non son degno di te, oh dolce madre mia. Voglio cantare per te la mia voce fra gli angeli che lodano il tuo nome, dicono il tuo sì, madre. Voglio donarti la vita mia perché sono tuo figlio nel cuore e nell'anima mia.